Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scusi, signor Manfredi, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio. Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. E soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli. Lei conosce personalmente qualcuno che abbia ottenuto il divorzio? No, solo gente che era divisa da anni. Questo era Nino Manfredi, che come tanti altri attori, uomini di spettacolo, hanno dato il loro volto per la battaglia contro il referendum che voleva abolire il divorzio in Italia. Da l'una e l'altra parte si erano molto spesi. Parliamo degli anni 70, ma ancora questa vicenda è rimasta abbastanza sospesa, abbastanza limacciosa, abbastanza dolorosa, faticosa. Ne abbiamo parlato più volte, un po' il nostro pallino, che siamo convinti, come diceva in questo spot Manfredi, che è giusto che le unioni che funzionano rimangano indissolubili, quelle ormai basate sul quotidiano e vessatorio rinfacciarsi il fatto che si stia insieme, non hanno più motivo di esistere. Ma viviamo in uno stato ancora molto clericale, uno stato mamma e papà, che deve farci riflettere e meditare sul fatto che noi uomini vogliamo sciogliere sulla terra quello che probabilmente, anche se siamo sposati soltanto in comune, qualche Dio ha allacciato nel regno dei cieli. Dobbiamo pensare, meditare, e ci sono anni lunghissimi e logoranti in cui si fa di tutto, è una battaglia senza quartiere, in cui i figli, se ci sono, sono la miccia che fa esplodere un'infinità di letali deflagrazioni, capito? E questo ancora non se ne è riusciti. Perché? Perché ci sono dei grossi blocchi, dei grossi pregiudizi. In Italia il matrimonio comunque è per norma indissolubile. Poi, se uno vuole mettere in dubbio questa indissolubilità, deve comunque passare un'agonia, delle forche caudine dolorosissime, ne esce distrutto, capito? Questo ci sembrava abbastanza difficile da scardinare, ma leggo oggi una notizia che vorrei commentare qui in studio, anche con le persone che mi ascoltano. È senza precedenti, scrive Virginia Piccolillo in prima pagina sul Corriere della Sera, la misura annunciata ieri alla Camera dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che potrebbe prendere corpo nell'immediato. Vediamo se nell'immediato, come tutte le cose che si stanno dicendo, nell'ambito di una riforma del processo civile mirata a sveltirlo, abbattendo l'arretrato. Insomma, separazioni, divorzi consensuali assistiti dagli avvocati, senza passare davanti al giudice. Finalmente siamo arrivati al divorzio lampo. È un divorzio che, come sempre si è immaginato, si è sperato, due persone non vogliono più stare assieme, dice vabbè, sai che nuova c'è, è finita, ognuno per la sua strada. Può essere così facile? 800240024, sentiremo quale sarà l'esatto contenuto concreto dell'annuncio del ministro Orlando, ma sentiremo anche come la pensate voi. Il Parlamento riprova a mettere mano alla legge sul divorzio e questa volta potrebbe essere quella buona. L'accelerazione è determinata dalla necessità di adeguare le nostre norme a quelle in vigore in molti paesi europei, ma anche per venire incontro a come la famiglia è cambiata nel corso del tempo. Insomma, dopo 44 anni la legge che ha istituito il divorzio, infatti nel 1970, sembra giunto il momento per una riforma. Prevede un tempo inferiore rispetto ai 3 anni e che sono 12 mesi dal giorno in cui si deposita la domanda di separazione per tutte le coppie, 12 mesi che scenderanno a 9 qualora non ci siano figli minori e qualora la coppia scelga la procedura consensuale. Questa è Alessandra Moretti, parlamentare del PD, che mi sembra che sia la sostenitrice di questo provvedimento. Avvocato Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, spesso nostro ospite, questa è la mattina tua. È accaduto qualcosa di nuovo, veramente di rivoluzionario, o è la fuffa solita che gira in questo momento in vari campi dello scibile umano e delle applicazioni umane e tocca anche il divorzio? Ma si parla di divorzio breve da anni, pare che siamo arrivati ormai addirittura d'arrivo. Credo che fondamentalmente si ridurranno i tempi per prendere il divorzio, e su questo credo non ci siano dubbi. Il problema però che leggo altre agenzie di stampa, cioè il ministro propone un modello alla francese, cioè la possibilità per le separazioni consensuali, i divorzi consensuali, di evitare la giurisdizione, cioè consentire agli avvocati di redigere un accordo, un vero e proprio contratto, e quindi evitare di entrare in un tribunale ed avere un decreto firmato. Ma è possibile farlo questo, visto che il matrimonio non può essere contrattualizzato per legge a noi? Ci potesse essere un accordo prematrimoniale, capirei, ma il matrimonio rimane qualcosa comunque legato a un altro tipo di ordinamento. Come fanno gli avvocati a scioglierlo da soli? Ma io parlo anche un po' anche contro gli interessi della categoria, forse probabilmente anche contro lo stesso prestigio della categoria, ma credo che sottrarre alla giurisdizione una materia così importante sia molto pericoloso, innanzitutto perché un controllo dello Stato su certi accordi ci deve essere, ci sono degli accordi capestro, magari perché trovi l'avvocato squalo che prevale sull'altro piccolo avvocato, e magari una delle due parti viene penalizzata. Tu hai descritto nel tuo ormai bestseller I perplessi sposi, editore Liberti, dei dolorosissimi iter che anche nei 3 anni passano attraverso i cosiddetti perplessi sposi, come tu li chiami, sì. E questi non sarebbero evitati, anzi, magari sarebbero condensati e addensati in minor tempo, ma ci sarebbe tutto lo stesso. Ma assolutamente, io penso che appunto per gli avvocati sarebbe una buona cosa, sì. Però credo che non sarebbe una buona cosa per i cittadini. In effetti un conto è precisare, un conto è semplificare le procedure, un conto è ridurre i tempi e un conto è addirittura tenere fuori dai tribunali delle procedure di questa importanza. Stiamo parlando di altro, per cui credo che probabilmente bisognerà discutere su questa proposta, che potrebbe addirittura diventare un decreto legge, quindi entrare nel nostro sistema all'improvviso, senza una discussione. Credo che dobbiamo discutere prima di fare queste cose. Io credo che invece la vera riforma avverrà quando se potremo abrogare tout court la separazione, come succede in tutta Europa. Quindi evitare un grado di giudizio, evitare che non se ne parla devono... diciamo in questo annuncio il ministro Orlando, no, però no non se ne rimane parla sempre affatto. Il tempo di separazione, 9 mesi al minimo senza figli, ma bisogna comunque stare separati, come uno bisogna se dovesse spurgare come le lumache prima di mangiarsi. Un compromesso, questo è un vero e proprio compromesso all'italiana. Allora io ho sempre sostenuto questo anche a Melog, i principi non sono una questione di quantità, o sono giusti o sono sbagliati. Il problema fondo è che lo Stato non deve permettersi di ordinare ai propri consociati di riflettere su questioni che riguardano la vita privata. Devo dire, Gianetto, ti fa molto onore, tu rappresenti gli avvocati matrimonialisti, quindi se tu dici questo, dici con piena cognizione di causa, lo dici contro i vostri interessi, per voi certo. Sarebbe la pacchia, figuriamoci, diventerebbe Disneyland, direbbe, figurati. Però se lo dici, evidentemente hai coscienza professionale che va oltre quello che è il tuo interesse personale. Semplicemente perché credo una cosa, che innanzitutto in Europa gli altri avvocati ci ridono in faccia. In secondo luogo gli italiani hanno Perché ci ridono infatti? Perché in Italia per ottenere il divorzio devi fare 2 distinti processi, 2 distinte parcelle, devi vedere i giudici un sacco di volte, stai per anni e anni in attesa di questa maledetta sentenza, spendi tanti soldi, lo dico, ripeto, contro gli interessi della categoria, e soprattutto molti italiani prendono i voli charter e vanno a Bucarest a divorziare direttamente, quindi voglio dire, il problema non lo risolviamo creando le vie crucis per arrivare al risultato finale, perché tanto gli italiani possono utilizzare le leggi internazionali e divorziare all'estero tranquillamente, senza problemi. Quindi cerchiamo quanto di risolvere costa divorziare all'estero più o meno? Ma in Romania pare che sui 3.500-3.600 tutto compreso, quindi viaggio da ritorno, avvocati, interpreti e quant'altro, si risolve il problema. E perché non lo fanno tutti allora? Perché la gente si massa solo consenzienti, allora bisogna essere d'accordo. No, si tratta di divorzi consensuali, perché in quel caso in Romania, come in Spagna, come in Germania e in altri paesi in cui si fa questo turismo di stile, non si fa la separazione, si va direttamente al divorzio. Poi tornati in Italia, queste coppie con la sentenza in lingua italiana la vanno a depositare all'ufficio dello Stato di anagrafe del loro comune, e quella sentenza è efficace e valida nel nostro paese. Quindi noi, mentre stiamo a fare i filosofi a discutere 3, 2 anni, 9 anni, 6 mesi, 10 anni, gli italiani vanno all'estero, forse non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo nel nostro paese. Non tutti sono d'accordo tra di loro. Io ho detto consenzienti invece consensuali. Il 60% i divorzi sono che è un lapsus congiunti. Molto freudiano, cioè c'è il senso della vittima comunque in qualcuno. Comunque, io piuttosto sostengo un'altra cosa, Gianluca, che il problema di fondo del nostro paese è quello di creare un diritto di famiglia laico, l'abbiamo sempre detto. Libero da tanti condizionamenti. In secondo luogo, la cosa più importante è pretendere degli addetti ai lavori che siano veramente specializzati in questa materia, perché ormai sul diritto di famiglia si stanno avvicinando tutti, e questo riguarda sia gli avvocati che i magistrati. Dobbiamo creare quindi degli addetti ai lavori che sono capaci di fronteggiare poi un'emergenza con quella del diritto di famiglia in Italia, che è una materia molto pericolosa, che fa morti e feriti, che violenta figli che vengono contesi a destra e a sinistra. Noi questo dobbiamo fare, più che ridurre solo i tempi, cerchiamo di riqualificare l'intero sistema. Sentiamo qualche ascoltatore. Marco, buongiorno. 800240024, ci credete che arriverà il divorzio lampo? Ho visto ancora, come stiamo cercando di capire, è una ennesima dilazione, ma rimane fermo il principio che il matrimonio è comunque indissolubile e lo Stato deve salvaguardare questa indissolubilità, e poi centellinando i tempi di attesa, i tempi di spurgo. Marco. Sì, buongiorno. Io mi sono trovato in una situazione assurda, dove io e la mia ex moglie eravamo d'accordo su tutto, sia sugli alimenti, sulle proprietà e tutto. Ci siamo presentati in tribunale con un foglio scritto da noi, siamo stati rimandati ci hanno detto dovete venire con l'avvocato, con gli avvocati. Abbiamo dovuto prendere due avvocati e li abbiamo pagati per scrivere esattamente quello che abbiamo detto noi. E niente, non siamo riusciti a ottenere il tutto se non pagando delle parcelle assurde, e non capisco perché. Gianetto, non è prevista l'autocertificazione in questo caso? No, nel divorzio non è proprio possibile procedere senza avvocati. Nella separazione, per quanto riguarda le separazioni, in molti tribunali ormai la gente prende un po' il stampato e va a separarsi tranquillamente, non c'è bisogno dell'avvocato. Anche se anche da questo punto di vista ci sono varie prassi, vari orientamenti, ci sarebbe da discutere anche in un congresso su questa differenza di trattamento e di prassi tra tribunale e tribunale, che è un'altra cosa francamente incomprensibile nel nostro paese. Ma la legge non è uguale per tutti? No, assolutamente, neanche i processi sono uguali per tutti, perché un processo a Milano è completamente diverso dal processo di famiglia a Roma, a Ambrosiano. A Napoli l'assegno di mantenimento viene calcolato in maniera diversa rispetto a Bolzano o a Palermo, quindi voglio dire, non c'è un'assolutamente certezza del diritto. Sembra tutto fatto apposta perché la gente sia sconsigliata, dice meglio sopportare che piuttosto che cercare di cambiare qualcosa che ormai è già stato scritto, un suggello eterno. Lello, buongiorno. Buongiorno, senta, io parlo da Ferrarato e i problemi più grossi cominciano quando si va in giudiziale. La cosa più brutta che possa capitare è delle persone separate, e in questo caso al papà è quello più penalizzato. Sì, questo è sempre saputo, certo, gli uomini. Sempre sono saputo. Allora io vorrei sapere qualcosa. Come fa un papà in affido condiviso, oltre a pagare gli alimenti e quanto serve per il bambino, poi si ritrova a dover pagare ancora per 7-8 anni avvocati e tutto l'ambaradame che viene, perché la controparte porta la causa 7-8-10 anni? Una cosa questa è diciamo, il pane quotidiano che abbiamo spesso descritto in questa trasmissione con l'avvocato Gassani. Sono tutte mucillaggini che sembrano messe apposta, impedimenti, vischiosità per sconsigliare le persone, per renderlo difficile. In realtà il matrimonio dovrebbe essere un felice e simpatico atto di contratto tra due persone. Dico, oh, che bello, stiamo bene assieme, vogliamo passare assieme tutta la vita, una parte della vita, quello che ci va della vita. Al momento la cosa non funziona più, si riprende in mano il contratto e in maniera consensuale si rescinde. Certo è che non è sempre così, ci sono delle volte che ci si lascia per accordo non sempre felice, ma in quel caso dovrebbe esserci la legge che ci dà gli strumenti non punitori, non punitivi, non vessatori, ma per semplificare anche il momento di normale e naturale dissidio. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, che ne pensate dell'idea che possa esserci un divorzio lampo, ammesso che ci sia, perché qua ancora parliamo di tempi di attesa, parliamo ancora di separazione, di questa assurda procedura per cui per divorziare bisogna prima separarsi, quindi fare due procedure separate con avvocati separati, ne finisce una ne comincia un'altra, ci sono sempre dei tempi di attesa, saranno accorciati, saranno solo 9 mesi in caso che non ci siano figli, probabilmente per essere sicuri che non ci sia un figlio in arrivo nel frattempo, non so, ci sarà un motivo evidentemente per questi 9 mesi. Avvocato Gianettore Gassani, ricordo presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, secondo te perché 9 mesi? Per evitare proprio che ci sia una gestazione in corso? Ma no, non credo che sia questo. Treno 7, non 10, 9 mesi, non 6. Infatti prima... Fra 9 e 12 non è che sia tutta questa differenza. No, non c'è una grande differenza. Si vuole mantenere in piedi la pausa di riflessione, perché si ha paura di affrontare il problema alla radice. Per cui si cerca di fare il classico compromesso all'italiana. Non dobbiamo riflettere 3 anni, ma dovete riflettere 9 mesi. Quasi a dire abbiamo meno tempi di riflessione, ma dovete pure riflettere perché vi imponiamo di riflettere. È lo Stato che impone. Ma secondo me il legislatore ha pensato, metti che hanno avuto un incontro il giorno prima di litigare, facciamo passare 9 mesi, perché se ci fosse un figlio in arrivo potrebbe esserci dei problemi, sennò ma perché 9 mesi? No, vabbè, non c'è un problema da questo punto di vista, giuridico. Il problema è che noi non vogliamo ammettere che la separazione è una cosa inutile nel momento in cui stabiliamo che nel 98% dei casi la gente che chiede la separazione non torna indietro, ormai è finita. Quando entri in tribunale è finita, soltanto il 2% dei casi la gente si riconcilia. Quindi che significato ha oggi avere ancora la separazione? Questo è il punto di domanda. Non vorrei mettere insieme due argomenti che in realtà hanno livelli di drammaticità personale differenti, ma noi siamo ancora un paese dove negli ospedali dove vanno le donne a abortire possono entrare persone con crocifissi, santini e rosari per dissuaderle, e questo non viene considerato una violenza nei confronti di chi già passa un momento delicato. Quindi... Ma io penso la cosa che la Chiesa Cattolica è fondamentale per il nostro paese, il problema è che ogni ambito però deve avere appunto il suo raggio di azione. Tutto qui, è normale che la Chiesa, fa bene la Chiesa a sostenere le proprie tesi, cioè, il problema è che fa male il politico italiano, il legislatore a esserne condizionato fino a questo punto, e su questo credo che non ci sia da discutere, indipendentemente dal fatto se siamo cattolici o non siamo cattolici. Io secondo me, guarda, laico, c'è poco da fare. Uno Stato laico dà un maggior valore e una maggiore dignità di esistenza che è una visione confessionale trascendente la vita. Proprio si crea una netta differenza nella libertà di scelta. Ilaria, buongiorno. Ilaria. Buongiorno. Sì. Volevo riportare l'esperienza in realtà del mio attuale marito, cioè del suo divorzio, che però ha ritardato notevolmente il nostro matrimonio, perché lui si è sposato, poi si è separato e poi ci siamo conosciuti noi, però sua moglie nel frattempo era tornata a vivere all'estero perché sono di origine argentina. E praticamente quando è stato il momento di fare il cosiddetto tentativo di riconciliazione dopo 3 anni, che già è un po' ridicolo. E lei stava lì a ballare il tango e non aveva nessuna attenzione. Lei non voleva, naturalmente non era disposta a tornare in Italia spendendo i soldi del biglietto. Ma c'aveva anche ragione. E oltretutto abbiamo dovuto fare una delega con traduzioni e via dicendo, che ha ritardato i 3 anni di un ulteriore anno e mezzo. Per fortuna mio marito ha in ottimi rapporti col fratello di questa donna che vive ancora in Italia, ha potuto essere lui il delegato. D'altronde poi si erano sposati, il consenso della moglie era necessario, ahimè c'è una difficoltà, sì, ulteriore. Però dico, nel suo caso. Questa quantità di tempo, cioè 3 anni addirittura, in cui possono succedere chissà quante cose. Uno per esempio può andare a vivere all'estero. Certo, allora, giustamente cambiano le situazioni, chiaro, sì, è vero. Ilaria ha parlato, Romina è morta. Paolo? Eccomi qua, Nicoletti. La mia esperienza è stata traumatizzante. Voi parlate adesso dei 3 anni per la separazione e per il divorzio, bisogna far passare, mi sentite? Sì, sento bene. Sì, bene. Ecco, ma se la causa non è la separazione consensuale, ma è giudiziaria, si va nelle mani dei giudici. A quel punto succede come è successo a me, 11 anni. per arrivare al divorzio? 6 anni, la prima sentenza. 6 anni, i primi 2 anni passati che mi diceva l'avvocato c'è l'udienza ogni 6-7 mesi, poi mi diceva all'ultimo momento no, non si trova la pratica. 2 anni sono passati così, 2 anni per le testimonianze, 2 anni per avere ulteriori approfondimenti, alla fine 6 anni, sentenza, vado in appello, 2 anni, 3 erano i punti su cui discutere, 2 sono stati riformati. Ragazzi, se io lavorassi così, col culo come ha lavorato quel giudice, mi avrebbero già licenziato da 20 anni. Ecco. E dopo, per il divorzio, altri 2 anni. Un anno ho dovuto aspettare che trovassero la sentenza di divorzio positivo, perché l'avevano persa. Cari signori, questo è il Tribunale di Brescia, va bene? Quindi lei ci ha messo 11 anni, Paolo. L'unico che si salva è stato all'appello. Devo dire che hanno fatto una sentenza perfetta e devo dire 2 anni per me rispetto ai 6 precedenti. Ecco, questa è stato... No, allora, si saranno impietositi, ormai facciate le nozze d'oro fra un po', si aspettano un altro po', andavate... Ha capito, sì, non sì. Le dico quello che sono stato, perché ogni anno l'avvocato mi veniva a battere cassa. Vabbè, era il suo mestiere. Un anno fa deve pagare. Ecco, vabbè, adesso Paolo, abbiamo capito, adesso finalmente c'è riuscito, dopo 11 anni, è anche una prova dell'indissolubilità del suo amore per questa donna, perché 11 anni di attese, chiunque sarebbe scappato a gambe levate, però invece siete rimasti insieme, è un buon segno. Romina, tornata Romina, eccola. Sì, sì. Salve, niente, io sono al terzo matrimonio in pratica. È soddisfatta? Sì, oggi sì, dopo 20 anni di matrimonio, l'ultimo sì. Molto. Gli altri 2 come sono chiusi? Bene. Allora, il primo ho avuto una figlia e ho fatto una separazione consensuale che voglio consigliare a tutti. Quanto tempo ci ha messo? 3 anni. 3 anni. Il secondo matrimonio? Altri 2 anni. 5 anni, perfetto. Non c'erano le basi di matrimonio, ho avuto le corna subito, è inutile. Perché con le corna non c'è la base, sulle corna non si basa. Per me no. Come per lei, va bene, la sua considerazione soggettiva. Soggettivo, assoluto. Molto soggettivo, sì. Per me quelle basi erano importanti. Vabbè, adesso al terzo matrimonio? Su cosa terzo è basato? Terzo matrimonio, finalmente, senza corna. Senza corna. Cioè, non sta meno attenta, quindi sta più tranquilla. Sì, certo. Bene, è importante. Comunque, lei è stata una passeggiata di salute, allora scusi, non si lamenta. Sì. Sincera, basta non discutere, litigare. Soprattutto basta averci pronta la sostituzione in panchina, quello è fatto. Il materiale lasciamoli agli altri, non importa, è l'amore che è importante. Ma gli anni di riflessione le sono servite a riflettere, prime 3 anni, molto, poi 2 anni. Certo. L'esempio, l'esempio. Gianetto Regassari, come vedi il mondo è vario e noi accettiamo tutti i punti di vista. Questa signora ha trovato importante il periodo di riflessione perché ogni volta riproponeva un'alternativa. Vediamo però di fare un punto. Il caso del primo ascoltatore che ha aspettato 11 anni è così paradossale, così unico? Beh no, non è unico, non è paradossale. Nel nostro paese abbiamo tantissimi casi di separazioni e divorzi che nel totale sono durati anche 15 anni. Soprattutto sì, ci sono stati nel frattempo sbocchi in appello o in Cassazione, quindi i tempi poi sono veramente biblici. Il problema è che appunto in Italia ci vogliono pochi secondi per dire di sì e ci vogliono tanti anni per dire di no. Chi viola il matrimonio deve pagare un dazio, deve pagarla cara. Tu ti permetti di dire no a un matrimonio? Beh, in Italia è una bestemmia. Quindi si va conto una legge divina, questo è il senso. Beh, Gianettore, se avremo notizie più sicure, più tranquille e più certe, ti richiameremo a commentarle. A domani.